Sono uscito dal negozio dove andavo a fare la spesa, ho sentito due uomini che parlavano e dicevano: sì, quest'estate mi sa che ci toccherà mettere un campo di patate per far fronte alla crisi. Mi sa che farò lo stesso anch'io. Buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Si viene, si va, di umana commedia, che c'è chi la spiega e c'è chi viverà. Si viene, si va, comunque fischiando, cantando, un motivo ci serve comunque. Almeno fino al 18 maggio. Vedo che in regia si canta. Questa mattina c'è un generale apprezzamento per la scelta che su questo tema ricade sempre su Ligabue. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Questa mattina ancora una volta da sola al timone di Due di Denari. Salutiamo Mauro Meazza, che oggi non c'è. Nelle regole del distanziamento naturalmente le dobbiamo rispettare anche noi, e per una giornata in cui rientro in conduzione da studio, stasera sarò in vostra compagnia anche per Focus Economia, lasciamo a casa Mauro Meazza, che però torna naturalmente domani. Io sarò di nuovo in remoto, e questi sono i tempi del lavoro del coronavirus. Naturalmente però abbiamo rigorosamente tutto lo staff che ci segue. Abbiamo Danilo Di Trani, assistente badante di prossimità, come lo chiama Mauro. Abbiamo Marco Lombardo come assistenza in remoto, la regia che ci tiene compagnia come tutte le mattine, il nostro Alpino, se si può dire, naturalmente tutti rigorosamente con la mascherina d'ordinanza, che io non utilizzo qui vicino a me, sono però con i guanti, come potete tutti osservare regolarmente da Facebook. Di che cosa parliamo questa mattina? Vi rifaccio un punto sulle principali novità emerse dalla conferenza stampa del Premier Conte di ieri sera. Il punto in realtà lo stiamo facendo da tutti i giornali radio di questa mattina, le avete già letti i dettagli sui giornali di quest'oggi, e noi soprattutto sulle ennesima revisione delle regole sugli spostamenti torneremo domani con il nostro avvocato Valerio Vallefuoco, ma qualche anticipazione ve la posso anche dare, perché ci è un pochino, se vogliamo, propedeutica anche all'introduzione del tema che affronteremo questa mattina. Allora, dal 4 maggio, perché c'era attesa sul pronunciamento del Premier Conte rispetto alla riapertura delle attività economico-produttive, dal 4 maggio riapriranno la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso funzionale, ma anche il tessile, la moda, l'automotive, il vetro, l'industria estrattiva, la fabbricazione di mobili. Da oggi riaprono e queste attività anche per le attività appunto propedeutiche, e poi subito potranno riprendere i cantieri pubblici e le attività per l'export. Il nuovo DPCM firmato ieri dal Presidente appunto del Consiglio dei Ministri è di 10 articoli ed è il primo decreto della fase 2 che inaugura le riaperture progressive e graduali dopo il cosiddetto lockdown, il blocco totale praticamente del paese, lockdown da pandemia di Covid-19 cominciato l'11 marzo. Per le attività produttive si tratta sicuramente di una boccata d'ossigeno importante, anche se ovviamente tante attività rimangono ancora ferme, lo saranno per tutto il mese di maggio, e c'è ovviamente tanta scontentezza, per non parlare poi del mondo della scuola, che non è un tema che apriamo qua a Due di Denari, perché bisognerebbe dedicare, come sta facendo già egregiamente la nostra Maria Piera Ceci, un intero palinsesto a questa problematica molto importante. Per quello che riguarda gli spostamenti ci sono due novità di fondo, ma appunto vi ho già anticipato che domani ci faremo gran parte della trasmissione su questo, e cioè la possibilità di fare visita ai parenti stretti. Attenzione però, non mettetevi nella testa di fare feste familiari, perché non è ancora consentito. E poi c'è la possibilità di tornare a casa per chi a causa lockdown è rimasto bloccato in un'altra regione. Quindi gli spostamenti saranno possibili all'interno di una stessa regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti. Gli spostamenti fuori regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, salute, di urgenza e per il rientro presso la propria abitazione. Le nuove misure per la fase 2 prevedono che sarà consentito l'accesso ai parchi pubblici, rispettando la distanza, regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini. Continuano ad essere sospese le cerimonie civili e religiose, ad eccezione dei funerali, che potranno essere celebrati in forma ridotta con al massimo 15 persone. L'autocertificazione sarà ancora necessaria fino al 18 maggio, se si uscirà dalla propria regione, ma ovviamente il modulo cambia ancora e non vediamo l'ora di vedere il nuovo formato. Allora, in tutto questo non abbiamo ben capito se possiamo andare o in un centro di assistenza fiscale o dal commercialista per cominciare a mettere mano alla nostra dichiarazione dei redditi, e questo è il tema di cui parliamo questa mattina. Fra un po' ci colleghiamo con il nostro collega Cristiano Dell'Oste, che ci dà tutte le novità sulle scadenze di quest'anno, scadenze fiscali che ovviamente sono state quasi totalmente rimodulate dall'emergenza sanitaria. E allora, quali sono le novità? L'emergenza pandemia non è che vi ha fatto dimenticare la dichiarazione dei redditi, vi siete informati sulle nuove scadenze? Come funzionerà per esempio la precompilata? Una volta che l'abbiamo scaricata dall'apposito sito e una volta che abbiamo controllato che tutti i dati siano più o meno a posto, chiaramente per chi fa la precompilata l'invio è telematico ed è tutto abbastanza semplice, ma per chi ha bisogno di correggere la dichiarazione dei redditi magari con l'ausilio di un professionista, se non lo può raggiungere, è chiaro che in remoto si può fare molto, ma magari qualche volta anche un dialogo con un commercialista per una situazione fiscale un pochino più complessa è necessaria, un dialogo è necessario. E allora come si fa? Vedremo se questa mattina appunto c'è qualche novità anche da questo punto di vista. Fateci le vostre domande all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666. Questo sarà il nostro tema portante di oggi, ma come ogni lunedì che si rispetti c'è naturalmente anche il Meteo Borsa. Meteo Borsa. Previsioni del tempo finanziarie questa mattina le facciamo con Federico Pons, Country Head per l'Italia di Janus Henderson. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto io scatto la consueta Polaroid sulla partenza della settimana finanziaria. Abbiamo Milano molto ben impostata, più 2,26% sul FTSE MIB, più 1,65% per la Borsa di Parigi, Francoforte più 2,20%, Londra più 1,69%. Il mercato, ne stiamo parlando da qualche giorno con molti operatori finanziari, sta recuperando parecchio terreno rispetto alle perdite che ha messo a segno tra fine febbraio e metà marzo, quando chiaramente sull'onda della grave crisi economica che si preannunciava, ovviamente anche il mercato è stato il riflesso, lo specchio necessario della condizione appunto macroeconomica generale, e poi però ha ripreso a ripartire. Il mercato guarda con forza, con vigore, con ostinazione alla fase 2, vuole assolutamente insistere sulla ripresa delle attività economico-produttive mondiali, si guarda soprattutto ai numerosi piani di aiuto che continuano ad essere varati, in particolar modo diciamo che il sostegno stamattina, dicono gli operatori, arrivi anche da quanto accaduto la settimana scorsa negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump, a prescindere dalle gaffe continue del presidente, in realtà dal Congresso continuano a partire piani di aiuti importanti per le piccole e medie imprese, per il sistema sanitario. L'ultimo piano approvato è stato di 484 miliardi di dollari. Per quello che riguarda l'Italia, invece, Pons, vorrei cominciare subito da un commento su questo. Standard & Poor's ci ha graziato, ha lasciato il giudizio sul debito pubblico italiano invariato a BBB con outlook negativo. Tutto come da copione oppure tutto sommato o vi aspettate? Aspettavate che forse un giudizio un pochino più d'allerta dall'agenzia di rating potesse arrivare? Lo spread stamattina risponde bene, un po' in discesa rispetto alla settimana scorsa, siamo a 226 punti base. Posso chiederle subito un giudizio su questo? Sì. Sì, assolutamente. No, il risultato di Standard & Poor's è positivo, perché poteva essere anche benissimo negativo, cioè non era scontato. Diciamo che gli investitori non amano l'incertezza, come l'incertezza non è amata neanche dai cittadini. Per quanto riguarda quello che è successo ieri sera, sono state, nonostante il fatto che siano state confermate le restrizioni, almeno c'è un piano ben preciso, per cui 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno. Per lei è ben preciso, quindi, no? Perché è interessante questo aspetto laddove invece i commenti che circolano sono di tutt'altra natura, una politica che non decide, ancora una volta un atteggiamento ondivago, senza nessuna misura molto chiara. Invece la percezione degli operatori finanziari è che questa indicazione di date sia qualcosa che al mercato serve, a cui piace. Sì, sì, sì. E piace anche ai cittadini, anche perché dipende molto da noi, dipende molto dalla situazione del contagio dei prossimi giorni, quando si allargheranno le maglie. Per cui è qualche cosa che è tutto in fieri, per cui le date sono state fatte, però chiaramente c'è il pericolo, c'è lo scenario peggiore, lo scenario poi della ricaduta più avanti, però questo poi lo analizzeremo più avanti nello scenario più negativo, però almeno ci sono delle date, ecco. e questo appunto il mercato lo apprezza. Senta, prima di andare un po' ad esplorare in termini generali quali settori potranno dare segnali di movimento interessanti prossimamente, mi soffermerei ancora un po' sugli appuntamenti della settimana. Allora abbiamo intanto il direttivo della Banca Centrale Europea, questo è un appuntamento pure estremamente importante, laddove abbiamo capito che anche per arginare la volatilità del mercato obbligazionario la BCE sta intervenendo molto, e questo ha aiutato anche tutto sommato, anche se qualche segnale di nervosismo l'ha dato, a contenere i movimenti sussultori dello spread fra BTP e Bund. Ci aspettiamo dell'altro dalla BCE questa settimana? Secondo lei, insomma, è già stato fatto tutto quello che poteva essere fatto, cioè è stato detto che si farà tutto quello che si potrà fare? Che cosa ci aspettiamo da Christine Lagarde questa volta, a prescindere anche dal fatto che non ci aspettiamo che rilasci altre gaffe come quella clamorosa di un mesetto fa? Sì, aggiungerei due cose. Uno, i tassi sono già negativi, sono già al 0,5-0,6, per cui qualsiasi movimento è poco influente sui mercati. L'unica cosa che potrebbe essere considerata è l'apertura agli high yield, cioè ai junk bond, ai titoli più rischiosi sotto i corporate, visto che comunque c'è stata un'apertura adesso, che vengono presi questi titoli come garanzie per i prestiti alle banche. Alle banche, esatto. Quindi se le banche, no, per spiegare ai nostri ascoltatori, Pons, se una banca ha bisogno di accedere ai canali finanziari della Banca Centrale Europea, deve presentare delle garanzie per ottenere questi prestiti e finanziamenti. Fino a poco tempo fa, titoli in portafoglio con un rating molto basso non poteva darli alla BCE. Perfetto. Da adesso la BCE ha detto sì, potremmo considerare appunto di accettarli. Esatto, per cui si può aprire la possibilità di acquistare anche questi titoli attraverso il QE, il quantitative easing, a cui in questo momento non sono ammessi. Ecco, questo è l'unico punto di domanda, però magari una cosa più futura che immediata. Però aveva già fatto bene appunto al mercato questa apertura, soprattutto perché come dire, era stata vista con un po' di preoccupazione in vista del rating di Standard & Poor's che doveva passare venerdì scorso. Senta, il petrolio stamattina mi ritorna ad essere nervosetto, perché vedo il greggio americano, il West Texas, il WTI, che è ritornato sotto i $15. Questa discesa sta riguardando il future, che scade a giugno. Non vorrei che si aprisse adesso uno scenario in cui rivediamo quello che abbiamo visto la settimana scorsa sul cosiddetto future su maggio, che è scivolato addirittura non in territorio negativo, ma addirittura in negativo pesante, $40 in negativo, in una condizione che è anche difficile da spiegare agli ascoltatori. Lei come vede questo comparto? Ma allora, è di difficile previsione e noi non lo mettiamo fra i comparti, diciamo, a semaforo verde, ne lo lasciamo un attimo da parte perché è troppo volatile. In questo momento il petrolio non lo vuole nessuno, per cui né quello sui mercati né quello fisico, per cui è nessuno che si vada a prendere i barili, per questo l'abbiamo già trattato, il fatto che comunque alle scadenze poi sia andato in negativo. Noi favoriamo quelli che si chiamano i basic materials, per cui tutto ciò che sono le commodities, ma non il petrolio. In questo momento il petrolio lo lasciamo da parte perché appunto ci sono dei fattori esogeni che è difficile considerare dal punto di vista dell'investimento. Quali sono i basic materials, Pons, tanto per dare qualche indicazione un po' più pratica agli ascoltatori? Sono un po' tutte le commodity, per cui si va da una parte dall'oro, tutte le basic materials che si intendono sui mercati finanziari, per cui che sono legati, sono considerati come asset, come asset ciclici, per cui possono performare meglio in un momento di rilancio dell'economia, come dovrebbe essere diciamo dal secondo, terzo trimestre in poi. Tra l'altro, gli ascoltatori, diamo naturalmente anche questa raccomandazione che non si può investire direttamente in materie prime, ci sono gli strumenti finanziari che in genere hanno anche una movimentazione abbastanza articolata, sono molto soggetti anche alle valute su cui sono esposti, per cui non è facile investire su questo mercato, per cui naturalmente se ci guardate con interesse fatelo con precauzione, magari con degli strumenti complessivi come fondi oppure ETF appunto indicizzati a questo settore, che magari riescono ad arginare un po' di più la volatilità a cui mediamente questo mercato appunto è sottoposta. Allora, sì, che cosa dobbiamo dire relativamente a quello che ci aspetta nei prossimi mesi? Allora, intanto siamo alla vigilia di maggio, dove c'è sempre la ricorrenza del sell in May and go away, vendi a maggio e scappa, ma diciamo che un po' questa ricorrenza è stata un pochino anticipata già a marzo, non vorrei che le stagioni anche finanziarie si stessero alterando. Detto questo, appunto, che non si sa bene a maggio che cosa succederà, cosa vi aspettate come operatori, il miglior scenario possibile che si potrebbe concretizzare per voi e il peggior scenario possibile che si potrebbe concretizzare per voi, quali sono le due alternative? Sì, due velocissime considerazioni. Cioè, la risposta della politica economica è stata molto, molto rapida, per cui inserimento di moneta sui mercati, molto di più rispetto a quello che è stata la crisi nel 2008. Questo ci fa pensare che ci sarà una ripresa veloce, non voglio dire a V o a U, che poi comunque bisogna spiegare, una ripresa veloce. Questo quando potrà avvenire? Potrà avvenire dalla fine del secondo trimestre verso la fine dell'anno, ok? Poi con una forte crescita economica nel 2021. Questo è il nostro scenario migliore. Questo ci porta ad approfittare magari di alcuni momenti ancora negativi per, considerando il rischio di profilo, il profilo di rischio dell'investitore finale, di magari incrementare leggermente gli asset rischiosi. Fra gli asset rischiosi, che cosa, dove ci concentreremo, dove ci focalizzeremo noi? Uno, sui ciclici, per cui come abbiamo appena detto, per cui materiali, finanziari, comunque cose di questo tipo, sugli emerging market e in generale sull'equity, per cui sul mercato azionario che sia appunto europeo, americano o soprattutto magari anche emerging markets, che attraverso la Cina potranno riemergere più velocemente, visto che comunque la pandemia è più sotto controllo rispetto a qui. E infatti, finisco parlando sì, un attimo dello scenario peggiore. Lo scenario peggiore è una ricaduta dopo l'estate. Perché una ricaduta cosa vuol dire? Che torni il lockdown dopo l'estate. Questo è uno scenario negativo, perché si ricomincerebbe da capo e chiaramente ci sarebbe di nuovo una caduta dei mercati. Senta, a lei è piaciuto l'esito del Consiglio europeo di settimana scorsa, fra le misure prese, il rinvio ad una concretezza rispetto a questo recovery fund, questo fondo che dovrebbe garantire il sostegno a tutte le attività economico-produttive che devono appunto ripartire prossimamente? Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha visto rispetto a questo consiglio? Io ne ho visti più di positivi che di negativi, per cui si va avanti con la direzione di Recovery Fund, bisogna capire in quanto tempo, perché l'ammontare, Ursula von der Leyen ha parlato di migliaia di miliardi, benissimo, l'importante è capire in quanto tempo, cioè da qui alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo, in 3 anni, questa è la cosa più importante, che verrà chiarita adesso all'inizio di maggio. Dopodiché c'è da capire se questi saranno prestiti o trasferimenti a fondo perduto, cioè vuol dire gratis. E poi terza cosa che è ancora da chiarire, se vanno per le lunghe, se ci sarà fatto un prestito ponte da qui alla fine del 2020. Queste sono le cose, diciamo, il punto di partenza è positivo, però mancano dei dettagli che verranno chiariti da qui a 10 giorni circa. Grazie a Federico Ponze per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, una buona settimana. Grazie. Presto. Sui dettagli di Piazza Affari andremo tra poco, quando ci sarà alle 11.30 l'appuntamento con la seduta di borsa. Adesso sentiamo le altre notizie di oggi. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, ci state già mandando tanti messaggi con una richiesta di chiarimenti rispetto alle nuove regole sugli spostamenti. Dateci modo di leggere bene il provvedimento, circola da poche ore, e date modo anche al nostro avvocato Valerio Vallefuoco appunto di interpretarlo e decifrarlo, e domani vi daremo tutti i dettagli. Tanto si parte il 4 maggio, per cui tra oggi e domani non potete far nulla, potete al massimo anche voi scaricare da qualche parte il provvedimento perché circola e cercare appunto di capirlo, ma noi ci andiamo domani su questo argomento, quindi non ditemi, non chiedetemi già se è possibile spostarsi da una regione ad un'altra per andare a raggiungere la seconda casa. Questo mi pare di poterlo dire con certezza, che non sarà consentito per ora. poi vedremo appunto cosa succederà. Volevo leggervi invece, sempre a proposito di tutte le conseguenze scatenate da questa pandemia, due risposte che abbiamo tratto dall'inserto L'esperto risponde, che è in edicola oggi con Il Sole 24 Ore. Allora, a parte che adesso potranno essere celebrati a certe condizioni i funerali, ma è un po' difficile invece celebrare altre cerimonie, comunioni, cresime, matrimoni, insomma è saltato tutto, a meno che non lo si voglia fare ovviamente con mascherina, solo le coppie vanno davanti al eventualmente appunto al funzionario pubblico che può celebrare, ma ecco, grandi feste non se ne possono fare, anzi non si può fare proprio un bel niente. Allora, due domande tratte dall'esperto risponde. La prima chiedeva: la mia compagna e io dovevamo sposarci a metà giugno 2020, ma vista la situazione abbiamo deciso di rimandare direttamente al prossimo anno, sempre lo stesso mese. La proprietaria del ristorante però che cosa ha detto? Allora, se volete riottenere la caparra dovete rimandare, ma entro quest'anno, altrimenti la caparra la perdete. Allora questo lettore del Sole 24 Ore dice: ma ha ragione questa signora a fare questa richiesta? Cosa risponde l'esperto? Allo stato attuale e in assenza di altri provvedimenti di proroga delle disposizioni governative per il contenimento della pandemia, provvedimenti che sono arrivati ieri sera ma valgono appunto fino a metà giugno, questo signore doveva sposarsi appunto a metà giugno, la richiesta di posticipare il pranzo di matrimonio già fissato per giugno costituisce una proposta di rinegoziazione contrattuale che dovrà poggiare sul consenso di entrambe le parti, e questo ci sembra pacifico. Quindi, sotto questo profilo, la richiesta di effettuare il rinvio, rimanendo nell'anno 2020, non è una proposta di per sé illegittima, potendo costituire la base per un ulteriore negoziato. Considerando che il contratto originario dovrebbe trovare esecuzione in un periodo che ricade al di fuori dell'attuale periodo di sospensione delle attività commerciali imposta dal governo, non è possibile pretendere di risolvere lo stesso senza spese o penali, non sussistendo una concreta situazione di impossibilità sopravvenuta che possa determinare l'automatica risoluzione integrale del contratto. Questo sulla base di quello che sappiamo fino ad ora e di quello che è stato risposto anche ieri sera. Poi magari interverrà un altro provvedimento che limiterà tutte le possibili iniziative anche per il mese di giugno. Allora magari questa persona potrà ovviamente ritornare dalla proprietaria di questo ristorante e a chiedere la restituzione di quanto anticipato. Per il momento non ha totalmente ragione nel poterlo fare, almeno secondo le disposizioni di legge. Un'altra domanda invece riguarda sempre un matrimonio, ma più che il matrimonio riguarda il viaggio di nozze. Allora, questo matrimonio era inizialmente fissato per il 30 maggio, che è stato annullato. Il viaggio di nozze che ne derivava, la cui partenza era fissata il 2 giugno, per questo viaggio di nozze appunto questa coppia aveva versato all'agenzia di viaggi un acconto di 500 euro. Il saldo sarebbe avvenuto grazie ad una lista di nozze dedicata al viaggio. E allora questa coppia che cosa ha fatto? Ha chiesto ovviamente di avere indietro l'acconto versato all'agenzia di viaggi. L'agenzia ha risposto: non solo non ti ridiamo l'acconto, ma devi anche pagare le penali per un totale di oltre 1000 euro. E allora ovviamente che cosa risponde l'esperto su questo? Questo è un pochino più chiaro di caso, perché su questo tema dei viaggi annullati e cancellati il decreto Cura Italia è intervenuto con una disposizione specifica e molto dettagliata, cosa che non è successa invece per i pranzi di nozze e le prenotazioni al ristorante. L'esperto risponde: l'agenzia potrebbe avere ragione laddove le misure emergenziali di contenimento della popolazione assunte dal governo dovessero cessare immediatamente. Se invece queste permangono, come è successo, il lettore potrà risolvere il contratto di viaggio senza spese e senza penali, avendo diritto alla restituzione del prezzo pagato o in alternativa all'emissione di un voucher di pari importo, perché il governo ha disposto questo, così come previsto dall'articolo 28 del decreto 9 del 2020, il decreto Cura Italia appunto definitivamente convertito alle Camere la scorsa settimana. E con questo direi che ci fermiamo, cara regia, andiamo all'ultima rubrica di oggi e poi, se tu sei d'accordo, attaccherei direttamente la sigla per i mercati, per poi ripartire con la seconda parte del programma e cerchiamo di capire come ci dobbiamo organizzare quest'anno con la dichiarazione dei redditi. Dillo a due di denari. Io ho preso un verbale, una multa. Ero in macchina con mia moglie, sono andato a fare gli esami del sangue come faccio una volta al mese, tutti i mesi devo andare a fare questi esami che mi danno delle cure da fare. E come da 25 anni a questa parte io seduto sulla parte guida e la mia signora seduta dall'altra parte, come succede da 25 anni ogni mese, perché quando mi infilano l'ago io ho sempre qualche piccolo mancamento, cioè mi dà, sono fatto così, no? Però ci hanno fatto questo verbale da 533 euro perché eravamo in macchina, perché eravamo in due. Ma abbiamo avuto un mese di tempo per pagare. Il discorso è, con la crisi che c'è oggi, mancano i soldi, la gente non può comprare da mangiare, ti danno delle mazzate così. Se lo pago entro un mese diventano 370 euro, ma 370 euro tutti in una volta. È un po' un problema, specialmente in questo periodo qua. Bravi, fate pubblicità alle banche. Bravi, bravi. Due di denari. Se uno vuole mettere delle patate lo deve fare adesso, perché altrimenti quest'estate è tardi, d'estate si raccolgono le patate. Il punto di Conte di ieri sera, del logorroico Conte, è che ci sta facendo fallire tutti noi piccoli partite IVA. Non so che cosa dire, ragazzi, magari se avesse dato il via libera alla ripartenza di tutto secondo la modalità che ci piace, poi riparte il contagio e questo governo sarebbe stato considerato responsabile di non avere adeguatamente protetto il paese, i suoi cittadini. Come la fai, la sbagli? Non vorrei essere sicuramente a Palazzo Chigi, ecco, non so come la pensate voi, sicuramente tutto si può fare meglio. Però non che mi piaccia ovviamente appoggiare le iniziative pubbliche, perché non sono neanche in grado di poterlo fare, ma abbiamo visto una situazione veramente drammatica nei mesi passati, per cui io non so voi, ma sono stata spesso durante la giornata appesa alla conferenza stampa serale della Protezione Civile. Sinceramente, nelle giornate più drammatiche, 600, 700, 800, 900 morti, sono cifre che non avrei mai voluto sentire. Detto questo, io capisco anche il dramma in cui si trovano tutte quelle piccole attività che non possono ripartire, che non possono riaprire. Tante categorie sono scontente. È proprio un eufemismo utilizzare questo termine, sono in una condizione assolutamente drammatica, perché il problema è che, per quanto potranno riaprire anche avendo la certezza di poterlo fare, non lo so, al 1° giugno, certamente non sono attività che, recuperando anche l'impossibile, possono recuperare quello che hanno perso in questi 3 mesi. Noi lo capiamo, per cui ci appoggiamo poi alla sensibilità del governo, magari appoggiato dall'Europa, che consenta di stanziare soldi a fondo perduto, perché io capisco che l'unica possibilità per sostenere chi non può lavorare adesso è questa. Non so se si potrà fare, ma speriamo di sì, che qualche cosa si possa fare. Cristiano Dell'Oste, Sole 24 Ore, buongiorno, ho fatto il mio editoriale oggi, hai sentito? Senti un bene, po'. Molto bene. Vabbè, detto questo, ci si può andare dal commercialista, secondo quello che si è capito dalle indicazioni fornite ieri sera, o facciamo tutto in remoto, la telefonata sarà più che sufficiente? Perché molti ascoltatori che si appoggiano ai CAF, ai centri di assistenza fiscale, in realtà chiedono se possono andare a fare una chiacchiera con il consulente, appunto, di questi sportelli preziosissimi. Ne sai qualcosa, Cristiano? Beh, cominciamo con il dire che le attività professionali, e in particolare quelle di assistenza fiscale, sono attività che non hanno mai completamente chiuso durante il periodo di lockdown, questo come indicazione. In realtà molti CAF che hanno sedi sul territorio si stanno attrezzando proprio in queste settimane per tornare a poter accogliere a pieno regime il pubblico. È comunque da dire che in questa fase conviene prima fare una bella telefonata o attivare i servizi online piuttosto che andare ad accalcare l'ufficio, proprio perché molte attività si possono svolgere da remoto, e comunque anche chi è rimasto operativo riceve il suo appuntamento. Questo vale anche per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che sono attivi appunto solo su appuntamento e comunque incoraggiando tutta una serie di operatività online. Infatti, e quindi insomma, allora intanto cominciamo a fare un po' di ordine su tutta la documentazione che ci serve per fare la dichiarazione dei redditi quest'anno, in modo tale che nel caso in cui potessimo essere ricevuti o dal commercialista o dal centro di assistenza fiscale, quantomeno non si perde tanto tempo lì a riordinare e a mettere appunto correttamente a posto la documentazione che ci serve per la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Il calendario però, Cristiano, è questa sicuramente una novità, è un po' cambiato rispetto agli ultimi anni, allo scorso anno, rispetto alla prassi, alla norma. E allora la dichiarazione dei redditi e le scadenze in questa fase da Covid-19, la rimodulazione, in che cosa consiste e quali sono le novità? Cominciamo con il dare due date, Deborah. Allora, il 5 di maggio, cioè martedì della prossima settimana, che fatalità cade il giorno dopo l'avvio della fase 2, il fisco metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata dei redditi. Ci eravamo abituati ad trovarla online, esatto, a metà aprile. Quest'anno anche il fisco si è preso un po' più di tempo, anche perché per la trasmissione dei dati a sua volta gli operatori hanno avuto un pochino più di tempo. Quindi questo è un primo elemento. Quindi 5 maggio, messa a disposizione online della dichiarazione dei redditi precompilata. Dopodiché la presentazione del modello 730, quello riservato ai dipendenti e ai pensionati, che lo scorso anno era da presentare entro il 23 luglio, quest'anno slitta al 30 di settembre. Quindi, guardate bene, 30 settembre. Questo non significa che poi non si possa procedere prima, ma il termine ultimo per l'invio è appunto al 30 di settembre. Poi c'è il modello redditi, il vecchio modello unico che può essere utilizzato da tutti coloro che possono fare il 730, anche se per loro è preferibile 730 per velocità di rimborso. E poi in alternativa ovviamente diventa obbligatorio per i titolari di partita IVA. E allora in questo caso il modello redditi nel 2020 avrà addirittura il 30 di novembre come termine per l'invio. Quindi vedete che c'è un calendario molto dilatato. Per quest'anno. L'invio naturalmente questa è però un adempimento che deve sostenere il commercialista o il CAF in questo caso, giusto? Sì e no, nel senso che chi vuole scegliere l'invio diretto, quindi la modalità fai da te, può accettare senza modifiche la precompilata oppure modificarla e poi inviarla anche in proprio con il PIN delle entrate, il PIN fisco online oppure con altre modalità che se volendo poi possiamo riepilogare, ma comunque il contribuente può gestire l'invio con il fai da te se ritiene di farlo. È una scelta che negli anni è stata eseguita da un numero di contribuenti crescente. Nell'anno scorso eravamo nell'ordine un po' meno di 3 milioni di persone l'hanno fatto. Ovviamente la stragrande maggioranza si rivolge a un intermediario abilitato, ma si può fare anche da soli se si vede, per esempio, appunto da martedì prossimo, certo, lo si potrà vedere, che non occorrono grandi modifiche, si va a modificare la dichiarazione e la si invia. In ogni caso, come abbiamo detto anche gli altri anni, anche per chi vuole fare il fai da te, non è il caso di correre ad approvare e inviare la dichiarazione. Diciamo che prima di giugno non vale la pena di farlo, anche perché magari arrivano, come al solito, i chiarimenti dell'ultimo minuto e così si è allineati. Per chi è un lavoratore dipendente, Cristiano, arriva nei primi mesi dell'anno la certificazione unica appunto da parte dell'azienda. Anche per quello che riguarda appunto questo rilascio di questo documento, ci sono state delle date diverse o le aziende sono riuscite più o meno a rispettare i tempi tradizionali? No, in questo caso, per quanto riguarda la certificazione unica dei lavoratori dipendenti, dovremmo già averla ricevuta tutti perché il datore di lavoro ha già trasmesso i dati all'Agenzia delle Entrate, che proprio in questi giorni, appunto in vista del 5 maggio, sta ultimando le ultime elaborazioni per poterci far trovare il reddito all'interno della dichiarazione precompilata. Quindi quando arriverà la dichiarazione precompilata, martedì della prossima settimana, uno dei primi riscontri da fare per chi se la vuole scaricare è proprio andare a vedere nel prospetto che sta in coda al modello dichiarativo se sono state utilizzate dal fisco tutte le informazioni relative ai rapporti di lavoro che i vari datori di lavoro devono aver trasmesso. Cioè, io so per chi ho lavorato nel 2019, nel caso poniamo io abbia fatto più contratti a termine, oppure se ho un unico datore di lavoro a tempo indeterminato, e vado a vedere che quei datori di lavoro emergano tutti dal prospetto informativo, appunto, che chiude la mia dichiarazione dei redditi per compilata. Se ci fosse qualcuno, perché a volte succede che o non ha mandato o c'è stato un qualche disguido e l'informazione non è arrivata, io devo andare a integrare poi con i redditi che non risultano dichiarati. Questo è un po' il principio. E allora intanto io continuo a segnalare agli ascoltatori che se volessero intervenire sull'argomento, ma vedo che la dichiarazione dei redditi stamattina non è particolarmente gettonata, o non tanto quanto le richieste di chiarimenti sul provvedimento di ieri sera. C'è un ascoltatore che mi manda un sms molto articolato, io vi chiedo pazienza, se avete un messaggio di 20 righe mandatecelo a 2didenari@radio24.it, perché dall'sms faccio un po' fatica a capirlo, ma è un ascoltatore che ci scrive relativamente alla possibilità adesso di vendere i prodotti della sua rosticceria attraverso Sport, quindi c'è il cliente che va lì, fa l'ordine e porta via la merce, ma lui dice: mi sono stamattina messo a telefonare alla polizia locale, è in provincia di Rimini, ma non sanno niente, non hanno dettagli rispetto alla modalità con cui potrò fare questo lavoro. Guardi, vi chiariamo tutte le idee per quello che sarà possibile fare domani mattina. Questa è una delle novità delle ultime ore, mentre prima c'era la possibilità per i piccoli esercizi come questo di vendere solamente attraverso il delivery, cioè la consegna a domicilio. Adesso invece al contrario, le persone potranno andare senza fare assembramenti, non potrete entrare tutti in rosticceria in 50, ma anche qua distanziamento e attenzioni, e però probabilmente ci sarà anche bisogno di qualche disposizione locale, non so se di sindaci, appunto di polizia locale, per regolamentare bene anche il flusso delle persone. Quindi domattina lo chiariremo meglio con l'avvocato Vallefuoco, dateci anche a noi qualche ora di tempo per capire meglio quanto viene stabilito, ma in ogni caso si ripotrà fare dal 4 maggio, quindi abbiamo tutto il tempo per poterci organizzare. Allora, sono le 11:45 quasi, siamo pronti con il traffico, allora via. Di denari. Se si rispettano le regole, vedi che la multa non la prendi, te la sei presa e te la paghi. Se quando ti fanno prendere il sangue hai dei mancamenti, te ne stai lì buono buono affinché i mancamenti ti passino, capito? O te prendi i mezzi. Rispetto alla telefonata del signore che andava a fare gli esami del sangue, ma allora perché non vengono a farci la multa, visto che anche negli appartamenti, visto che comunque si vive insieme, in macchina no e nell'appartamento sì? Potete dire tutto quello che volete, ma le banche non mollano nulla, niente da fare, continuano a chiedere documenti su documenti, documenti su documenti, scuse su scuse. Ragazzi, qua mancano i soldi, lo capite o non lo capite? No, guardi, l'abbiamo capito molto bene, stiamo dando grande battaglia anche noi contro le rigidità del sistema bancario quando queste sono irragionevoli, e quindi continueremo a parlare di questi temi, soprattutto a parlare di quelle imprese, lo fa anche molto Focus Economia la sera, che hanno bisogno di liquidità immediata, vanno in banca per ottenere questo prestito, anche se nella modalità appunto ci è piaciuta relativamente, perché un'azienda che suo malgrado si trova in crisi e deve per forza di cose indebitarsi, è chiaro che è una forma che ci piace mica tanto. Però detto questo, a fronte di chi ancora ha molte difficoltà ad essere accontentato dal proprio istituto di credito, ci sono anche migliaia di casi che invece sono stati accontentati prontamente con poco più di autocertificazioni, per cui chi non riesce ad avere ragione perché ha una situazione più complessa, e come ha anche raccontato Mauro Meazza appunto nella trasmissione di venerdì scorso, che dove io non c'ero. Allora ritorniamo al tema della dichiarazione dei redditi, Cristiano, perché ci sono degli ascoltatori che chiedono se la consegna delle 7.30 è stata prorogata, è stata procrastinata per tutte le ragioni che conosciamo, per chi è a credito, il rimborso per quanto è previsto, perché eravamo abituati ad avere questa, se eravamo appunto a credito con lo Stato, ad avere ritornata indietro questa cifra nel mese di luglio. Funzionerà nella stessa modalità oppure ritroveremo questo denaro a settembre? Ecco Deborah, qui possiamo proprio ricollegarci anche ai messaggi di frustrazione che arrivano dagli ascoltatori sui problemi di liquidità. È chiaro che la dichiarazione dei redditi non risolve tutti i problemi, però dal punto di vista del modello 730 ci sono almeno un paio di buone notizie da dare. Allora, la prima risponde proprio alla domanda dell'ascoltatore, i rimborsi. Allora, i rimborsi arriveranno per chi si attiva per tempo e manda via il modello diciamo nel mese di giugno, con la busta paga di luglio se è un lavoratore dipendente, o con la pensione di agosto se è un pensionato. Quindi diciamo, da questo punto di vista c'è più tempo per chi ha bisogno di più tempo per l'invio, ma chi spedisce invia anche con il fai da te online o tramite un intermediario il modello tempestivamente, arriverà il rimborso come gli altri anni, quindi nella busta paga di luglio o in quella di agosto se parliamo di cedolino pensione. Quindi questa è la prima cosa positiva da ricordare. Ovviamente, e qui viene anche il retropensiero, chi fosse molto a debito potrebbe non affrettarsi con l'invio. Ovviamente la regola non è scritto, ma non è neppure vietato, quindi diciamo così, è chiaro che si avrà tanta più fretta di mandare il modello quanto più c'è un credito da andare a riscuotere. Scusami Cristiano, che mi stavo, perché c'è un ascoltatore che ci dice: io il 730 lo faccio da me e poi vado al CAF, ma i modelli non si trovano. Addirittura mi pare un po' strano, può essere? Beh, lo fa da sé, nel senso che l'ascoltatore sarà probabilmente uno di quelli che lo compilano online. In realtà lui forse fa riferimento ai modelli prestampati, quelli che tutti gli anni vengono distribuiti anche presso i comuni. È possibile che magari quest'anno ci sia qualche ritardo nella zona specifica dell'ascoltatore. È vero anche che i modelli sono già online. Nella peggiore delle ipotesi, se il nostro ascoltatore è in grado, può stamparlo dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Basta anche digitare semplicemente modello 730 2020 su Google e si arriva alla pagina dove si trova sia il modello che le istruzioni. Ma immagino che sia una fetta di popolazione molto residuale che compila da zero un 730, quantomeno parti dalla precompilata se proprio vuoi fare. Diciamo che c'è una fetta di diciamo contribuenti anche non di età più giovane che si sono sempre preparati per proprio conto il modello reddituale e poi si presentano dal CAF già con un semilavorato, diciamo così. È chiaro che chi riesce ad accedere alla versione digitale ha già una base di partenza, però ecco, temo che questo numero non sia così piccolo. Non abbiamo statistiche ufficiali, ma la mia impressione, anche da quello che vedo, è che chi fa come il nostro ascoltatore non siano così pochi. Ma come al solito, ho dato un giudizio in libertà, ma era una curiosità. Però ti ho interrotto prima sul completamento della risposta precedente. Sì, no, figuriamoci, non abbiamo statistiche, quindi potrebbe essere anche che abbia ragione tu. Dicevo, l'altro aspetto interessante è che se emerge un credito dal modello 730, io potrei anche non chiederlo a rimborso al mio datore di lavoro, ma usarlo in compensazione. E quindi usarlo per pagare delle imposte che io devo, quindi compensando le imposte dovute con il credito, senza dover così mettere mano al portafoglio, senza dover pagare nulla. Questo fino a un importo di credito di 5.000 euro, in cui ricade la stragrande maggioranza dei contribuenti che fanno il 730, lo posso fare senza bisogno di mettere visto di conformità sul modello, quindi lo posso fare in modo abbastanza agile. E per esempio, se io dovessi pagare l'IMU, per dire, immaginiamo che adesso non sappiamo se verrà rinviato o meno, ma al momento in scadenza è il 16 di giugno, se io dovessi pagare l'IMU e avessi un 730 molto a credito, potrei anche dire, anziché aspettare di incassare il denaro a luglio, in busta paga, mi spendo il mio credito per pagare direttamente l'IMU. E così evito di mettere mano al portafoglio per versare l'imposta immobiliare. In genere, quindi, questa è una pratica che piace ai contribuenti, oppure preferiscono i pochi maledetti e subito, in questo caso a luglio, e pagare le imposte che devono nei momenti in cui devono fare? Quanto ne so io, nella stragrande maggioranza dei casi si sceglie il rimborso in busta paga. Però questa, diciamo che se ci fossero contribuenti o persone che sono un po', come dire, tirate con i pagamenti, potrebbero anche scegliere questa alternativa di spendersi subito il credito in compensazione. Bene, le istruzioni e il modello 730, l'ho cercato ieri sul sito dell'agenzia, appariva solo quello del 2019. Beh, quale deve apparire, Cristiano? È il modello relativo all'anno d'imposta 2019, il modello 730 2020 relativo al 19. Il modello, tutti i modelli reddituali hanno questa asimmetria. Si chiama modello 730 2020 perché si usa nel 2020, ma serve per l'anno d'imposta 2019. Quindi probabilmente chi ci ha mandato questa segnalazione è incappato in questo equivoco. Se invece ha trovato il modello 730 con su scritto 2019, no, deve cercare meglio, perché quello 2020 c'è. Allora, c'è una richiesta, una serie anzi di richieste da parte di ascoltatori che sono in cassa integrazione e vogliono capire come verrà effettuato il rimborso 730. Però prima di rispondere a queste persone, Cristiano, c'è Bruno da Prato che ha la sua domanda e che ringraziamo all'800240024. Bruno, benvenuto. Sì, grazie Deborah, buongiorno. Buongiorno a lei. No, la mia domanda è questa: io che negli ultimi anni ho fatto una dichiarazione dei redditi congiunta con mia moglie tramite CAF, volevo sapere se la posso comunque fare anche con la procedura diretta sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Se la precompilata fa risultare appunto condivisione. Esatto. Cristiano? Sto verificando questo aspetto per dare conferma all'ascoltatore, ma direi che in linea di massima si può procedere con la dichiarazione congiunta. Cioè, anche se c'era già una situazione pregressa in cui i nostri due amici contribuenti sposati appunto facevano la dichiarazione congiunta, se da quest'anno volessero provare a fare la precompilata, non risulterebbe già che dal passato la facevano in maniera congiunta? Oppure sono comunque situazioni separate? No, allora intendiamoci. Il fatto che è stata fatta la dichiarazione congiunta fino all'anno scorso non preclude poter presentare la dichiarazione separata, come dire, quest'anno. Ma io ritengo, adesso lo sto appunto riscontrando per dare una risposta certa al 100%, ma io ritengo che si possa gestire la dichiarazione precompilata anche in modalità congiunta. Quindi se il nostro ascoltatore è, come dire, abituato a presentarla in questo modo ed ha già, come dire, la base relativa all'anno scorso lo può fare. L'unico, come dire, requisito è che la dichiarazione, diciamo, dei soggetti congiunti non ci sia almeno un incapace, ecco, stavo riscontrando, incapace dal punto di vista giuridico, un minorenne, cose del genere, ma nel caso di due coniugi non ci sono particolari avvertenze. Bruno, guardi, lei faccia la prova, se trova delle difficoltà ci scriva, qua abbiamo l'esperto risponde del Sole 24 Ore, metteremo in campo tutte le competenze che il nostro quotidiano appunto è in grado di mettere a disposizione dei lettori, e quindi magari ci potremmo fare anche un bel approfondimento, no Cristiano? Grazie proprio alla segnalazione del nostro ascoltatore. Bene, senti, le casse integrazione, allora ci sono un sacco di ascoltatori che ci stanno scrivendo che loro malgrado in questo momento si trovano in questa situazione. Per chi sta in cassa integrazione, come funziona per il rimborso? Allora, qui diciamo che la cassa integrazione di per sé non esclude la presenza del datore di lavoro, cioè se io sono in cassa integrazione un datore di lavoro ancora ce l'ho, quindi da questo punto di vista l'erogazione del rimborso fa capo comunque al datore di lavoro. C'è però un'altra possibilità che esiste già da qualche anno e che è comunque importante, ed è la cosiddetta presentazione della dichiarazione senza sostituto. Cioè l'ipotesi è che io nel 2019 avevo un datore di lavoro, quindi un soggetto che poteva farmi da sostituto d'imposta, poi ho perso il lavoro o magari mi sono messo in proprio e così via, insomma comunque sia quest'anno non ho più un sostituto d'imposta che può fare il conguaglio, allora in questo caso il rimborso mi arriva dall'Agenzia delle Entrate, cioè io posso gestire il modello 730 anche senza sostituto. Il rimborso mi arriverà dall'Agenzia delle Entrate in tempi più rapidi rispetto a quelli in cui arrivano normalmente i rimborsi, ma non a luglio, ovviamente, non con la busta paga di luglio, ma più avanti, verosimilmente dopo l'estate. Certo. Comunque è una procedura rapida. Giorgio da Padova interviene sul tema della precompilata congiunta. Ti leggo in diretta il messaggio, speriamo di appunto leggere correttamente perché è un po' lungo. Si può fare, però verosimilmente il contribuente non riuscirà ad accettare meramente semplicemente quella precompilata e dovrà modificarla per specificare che vuole fare la congiunta. Esatto. Sì, è così. Nel senso che la precompilata che si troverà dal 5 maggio non compare anche la situazione del coniuge, perché ognuno avrà la sua, e infatti mi pare che lo dicevi tu prima, no Cristiano? Sì, sì, sì, certo. E il poi... fisco ne metterà a disposizione due. Poi se io voglio fare la congiunta devo fare la devo anche modificarla, questo è chiaro. Diciamo che fare la congiunta presuppone che io non posso accettarla così com'è, perché il fisco me la fa individuale, la sua iniziativa. Nel caso del nostro ascoltatore, se lui avesse pochissime o nessuna modifica da fare, gli converrebbe accettare le due individuali. Benissimo. Se invece deve andare a inserire oneri detraibili in più, allora... alla fine di parlare. Cristiano, la trasmissione è giunta al termine, io ti ringrazio per essere stato con noi, ma so che scriverai tantissimo su questo argomento da qui alle prossime settimane, quindi magari quando sarà necessario torneremo anche con un'altra trasmissione di approfondimento, magari lo faremo proprio dal 5 maggio, da quando avremo la disponibilità appunto della precompilata dal sito delle entrate. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie Deborah, grazie agli ascoltatori. Noi ci ritroviamo con gli appuntamenti di borsa alle 12.30 e ci ritroviamo anche stasera a Focus Economia. A tutti, buona giornata.